Torna l'estate nel Parco della Montagnola con musica, dibattiti, incontri e, come sempre, tanto divertimento e tanto relax. Sto parlando di Montagnola Republic, la rassegna organizzata da Arci Bologna in collaborazione con i circoli Arci Millennium e Arcadia e la partecipazione di Brewdog. Per parlare della rassegna di quest'anno do il benvenuto al direttore artistico Amedeo Sole, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Amedeo, benvenuto a Radio Città Fujiko. Ciao, buongiorno. Ciao a tutti e tutte. Il primo giugno, quindi mercoledì 1 giugno, partirà la rassegna di quest'anno di Montagnola Republic, quindi ritorna l'estate nel Parco della Montagnola. Vorrei iniziare innanzitutto chiedendoti come sarà l'edizione di quest'anno. Sì, allora, praticamente quest'anno l'idea che ci siamo dati è praticamente di caratterizzarla su Metti Ciato, che comunque caratterizza già la Montagnola, quindi che comunque è il luogo del mercato, luogo di passaggio dalla stazione fino al centro, quindi comunque il luogo dove si incontrano più culture e anche potenzialmente dentro questo senso più praticamente musiche differenti, quella è l'idea. Quindi ci saranno anche dei gruppi internazionali che caratterizzano la rassegna e ci sarà anche una micro rassegna interna che si chiamerà Montagnola Global Republic. Partiremo il 1 giugno con un live di Davide Shorty, che è un rapper, cantautore palermitano che vive a Londra. E tendenzialmente dopo ci sarà il 2 giugno Populos nella rassegna di Persone dal Mondo, che è un cantautore invece pugliese che però ha fortissime contaminazioni essenzialmente latine, sudamericani, portoghesi, brasiliani, che sarà praticamente giovedì nelle prime 2 giornate di Montagnola Republic. Sì, questi sono i primi appuntamenti, appunto. Sì, i primi appuntamenti. Esatto, e la rassegna però sarà lunga, variegata, come spiegavi anche tu. Vorresti darci qualche indicazione rispetto anche alla programmazione, se ci saranno degli appuntamenti fissi all'interno di questa nuova rassegna? Sì, allora, sarà dal 1 giugno fino al 30 settembre. Ci saranno tantissimi concerti mensilmente, circa 20 concerti mensili. Ci sono delle cadenze fisse col giovedì con Montagnola Global Republic. Poi ci avremo come eventi anche il 20 giugno la festa del rifugiato, dove ci sarà sempre l'attivista, poetessa, cantante Aquanaru, e poi ci sarà l'orchestra dei braccianti di Cerignola. Poi ci siamo dati come altro giorno, come martedì, dove ci sarà sempre la giornata dedicata più ai bambini con Montagnola Kids, dove saranno tantissime iniziative, tra cui veramente burattinai, ci sarà anche una sorta di servizio di babysitteraggio e poi anche DJ set per bambini stiamo organizzando, sempre sul martedì. E poi diciamo che sabato e domenica ci saranno sempre dei concerti live. Quest'anno stiamo pensando anche di organizzare delle iniziative che comunque legano la birra con la musica, visto che con partner ci sarà anche Brewdog, quindi caratterizzare, insomma, e praticamente legare praticamente, diciamo, cioè dei birrifici stranieri con delle sonorità musicali precise. Quindi ci sarà la serata punk hipa, dove ci saranno comunque dei concerti punk, oppure c'è un altro birrificio To All di Copenaghen, dove ci saranno delle sonorità più elettroniche che comunque legano, appunto, insomma, l'identità della birra. Questa è un'altra novità della Montagnola di quest'anno. Amedeo, io ti ringrazio e chiaramente invito anche tutte e tutti a consultare anche la pagina della Montagnola per trovare anche tutti i vari appuntamenti, e auguro una buona fortuna a Montagnola Republic per l'edizione di quest'anno. Grazie a tutti e tutte. Insomma, ci vediamo comunque il 1 giugno in Montagnola per l'inaugurazione, vi invito.